già le tre, tu ti scopri un po', stai dormendo attaccata a me e sorridi, però non so ora dove sei. Tu vicina e così distante, il cuore ti batte ma per chi batte non ne so niente, chissà, chissà. Fantasie che l'insonnia dà, magari adesso un altro sta con te, se potessi li ucciderei, tutti i sogni tuoi. Piano piano vorrei svegliarti per rassicurarmi e per parlare un po', e invece no, forse ho paura di capire con chi stai. Tu sei, tu sei nel sogno da chi vai. Cuscino è scivolato giù, muovi i piedi cercando i miei e ritorni tu, quella che io potrei perdere un giorno o l'altro, devo ammetterlo sai, non ci ho pensato mai, convinto che se le altre storie finiscono